Senta, non è che ci siano molte persone, passando ad un altro argomento, non è che ci siano molte persone che ammettono, vabbè, forse abbiamo sbagliato, in politica non è una cosa, è una cosa abbastanza rara. Insomma, lei ha detto, nel caso nostro dell'UDC in Piemonte, forse abbiamo commesso un errore nell'appoggiare, forse, anzi no, abbiamo commesso un errore nell'appoggiare Mercedes Bresso. Mi può spiegare perché? Sa, l'onorevole Bresso, qui va tutta la mia stima, però è caratterizzata per posizioni fortemente laiciste, a volte francamente anticattoliche. E questo ovviamente il nostro elettorato lo digeriva a favore. Noi avevamo buoni motivi politici, in modo particolare l'opposizione alla Lega, per fare un'alleanza con la sinistra in Piemonte, impedire che la Lega occupasse tutto il nord. E il candidato non è stato il candidato migliore, infatti buona parte dei nostri elettori non l'hanno votato e abbiamo perso le elezioni. Se fossimo andati da soli noi avremmo preso più voti e forse la Bresso sarebbe stata eletta, perché lei ha perso anche voti di protesta di candidati molto, di elettori molto laicisti che hanno votato Grillo, in parte anche perché voi eravate alleati con lei, con noi le impediva di darsi molto da fare per recuperarli. Dunque avete sbagliato? Non mi sottraggo alle mie responsabilità, non sto dicendo che hanno sbagliato altri, come le dice giustamente abbiamo sbagliato. Lei è sempre stato molto critico, devo dire, sono andato a rintracciare le dichiarazioni su questa... critico, però poi alla fine abbiamo preso una decisione comune e io l'ho accettata. Quindi senta, ma insomma non è... Gli altri, no, certo. Contemporaneamente anche me stesso. Senta, ma non è un caso che... non è solo un insomma, a Mantova l'UDC fa l'accordo con il sindaco uscente del Partito Democratico e anche lì ha perso. In Piemonte è successo quello che è successo. Il tramonto definitivo dell'ipotesi di alleanza a livello nazionale tra UDC e Partito Democratico? No, bisogna vedere. Nelle Marche ha funzionato bene, Spacca è passato trionfalmente. Se perdeva anche Spacca a Buttiglione. Non solo, anche in Liguria è andata bene. E lì il candidato non era un cattolico, era Burlando, che è un laico, però era un laico che aveva una capacità di interlocuzione con il nostro elettorato. Molto dipende dai candidati che si scelgono. Certo, non è una formula che si realizzi automaticamente da sola senza una preparazione adeguata e senza buona volontà da tutte e due le parti.